Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, eccoci qua, scusate il rumore, sto spostando il microfono, ben trovati a Salva Danaio. E allora, come se non avessimo abbastanza, ormai ne stiamo parlando in ogni sede, ci mancava anche il caso Fastweb a turbarci un po', come abbiamo avuto modo di sentire dai nostri giornali radio, da tutti i giornali. Si tratta di una maxi inchiesta su una presunta enorme frode fiscale molto complessa, che ha visto anche la disposizione di una serie di misure di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari di Roma, Morgigni. L'inchiesta sta tentando di fare luce sulla costituzione di una rete di società telefoniche che avrebbe dato vita ad un'associazione a delinquere proprio per frodare il fisco. Le due aziende italiane chiamate in causa in questo sistema sono per l'appunto Fastweb e una controllata di Telecom Italia, la Sparkle. Stamattina l'amministratore delegato di Fastweb, Stefano Parisi, dopo una conferenza stampa organizzata ieri in tarda serata a Milano, è stato ospite anche del nostro Oscar Giannino, ha espresso con chiarezza la posizione dell'azienda. Noi oggi ritorniamo a Salva Danaio di nuovo sull'argomento, non tanto per intrattenerci sugli aspetti giudiziari e fiscali di questa faccenda per l'appunto, stamattina Oscar Giannino ne ha parlato ampiamente proprio con Parisi, quanto invece per chiarire un po' quali potrebbero essere un altro tipo di conseguenze di tutto questo. Conseguenze per chi? Intanto ne abbiamo viste di pesanti sui titoli delle società quotate, sulla stessa Fastweb che anche oggi sta perdendo oltre il 5% in borsa e sulla Telecom che oggi invece a Piazza Affari sta perdendo, ve lo dico subito in questo momento, il 3%. Ve ne daremo appunto le ragioni di questi cali, oggi c'è una motivazione particolare appunto su Telecom Italia, ma ci sono anche tante altre domande che stanno fioccando da parte dei nostri ascoltatori che sono anche clienti di questi gruppi di Fastweb in particolar modo e si chiedono, visto che se ne parla chiaramente e questa decisione potrebbe essere presa il 2 marzo, se le società fossero commissariate che cosa accadrebbe? Io che sono cliente Fastweb devo preoccuparmi di qualcosa, oggi cercheremo di darvi anche tutte le rassicurazioni su questo e parleremo anche delle conseguenze che hanno subito anche gli azionisti di questi gruppi. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. I nostri ospiti di questa mattina intanto, proprio per lo spaccato sul mercato, la nostra Valeria Novellini, analista finanziaria dell'ufficio studi del Sole 24 Ore, bentornata. Buongiorno. E naturalmente dobbiamo farci confortare da due legali per tutti gli altri aspetti. L'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria SPA, è mediamente, per chi se lo ricorda, generalmente il nostro esperto, il nostro interlocutore per le tematiche legate allo scudo fiscale. Questa mattina parliamo invece di organismi di controllo, secondo quanto stabilisce la legge 231 che è stata tanto chiamata in causa in questa vicenda. Avvocato Vedana, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi un'associazione dei consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, l'avvocato Francesco Luongo, che è responsabile del dipartimento TLC di questa associazione dei consumatori, oltre che segretario nazionale. Avvocato, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, vi ho ricordato i numeri per interagire con noi rapidamente, visto che ci sono tante questioni da chiarire. Diamo rapidamente anche un'occhiata alla borsa. Stamattina quadro incerto, in Europa abbiamo Londra sulla parità, Francoforte sulla parità, Parigi in calo dello 0,19%, Milano che invece in questo momento arretra dello 0,43%. Il calo più forte è su Tenaris, che ha presentato i conti pesantemente bocciati dal mercato, il titolo sta perdendo il 4,69%, Telecom, adesso ne parliamo, meno 3, Mediaset meno 1,68%, A2A meno 1,17% e abbiamo un ribasso di un punto accusato anche da Saipem, da Atlantia e da Pirelli. Segno più invece per Intesa San Paolo, che risente positivamente dei conti di Crédit Agricole. A Parigi il titolo in Francia è in rialzo di circa 3,5 punti, Intesa guadagna quasi 2 punti. Bene il lusso, Luxottica più 1,74, Mondadori più 1,56, Mediobanca più 1,47 dopo i conti presentati ieri, Banco Popolare più 1,30, Autogrill più 0,97%. Continua a scendere l'euro sul dollaro, stamattina è arrivato a 1,34,49, adesso risale 1,34,90, ma in ogni caso la preoccupazione per la Grecia non si stempera, anche se in questi giorni si parla d'altro e l'euro ne risente pesantemente, forse Standard & Poor's potrebbe declassare i titoli del debito greco, anche di questo magari torneremo a parlare nei prossimi giorni e chiaramente la turbolenza più forte si fa sentire proprio sulla moneta unica europea. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, anche noi di Salva Danaio andiamo sul caso Fastweb e Sparkle. E adesso cosa succederà? È la domanda che si pongono in questi giorni gli azionisti e i clienti di Fastweb e in parte anche quelli di Telecom Italia, che controlla al 100% Telecom Sparkle. Vale a dire le due società oggetto di indagini da parte della magistratura nell'ambito della cosiddetta inchiesta broker per frode fiscale e riciclaggio nel settore delle telecomunicazioni. Agli azionisti una prima risposta l'ha data la borsa. Martedì, dopo la diffusione della notizia, i titoli Fastweb sono crollati di oltre il 7%, chiudendo la seduta vicino ai minimi storici di 13 euro. Tuttavia, ieri, dopo un'apertura pesante, le azioni hanno archiviato la giornata in positivo, recuperando un punto percentuale. Azionisti, ma non solo. La domanda se la pongono anche clienti, fornitori, dipendenti. Tutti coloro che, in qualche modo, possono subire le conseguenze della bufera giudiziaria che ha travolto i due gruppi di telecomunicazioni. I pubblici ministeri che indagano, oltre ad aver disposto 56 ordini di arresto, hanno infatti richiesto il commissariamento delle due società. Di fatto un esproprio dei poteri dell'azionista, seppur temporaneo. Una sorta di messa in sicurezza. La decisione spetta ora al giudice per le indagini preliminari, che comunicherà la propria scelta il 2 marzo, dopo aver sentito le parti. Allora, io sono un po' indecisa su quale versante intraprendere, su quale fronte appunto cominciare ad affrontare. Comincerei subito con la borsa. Valeria Novellini, se non altro, poi sentiremo l'amministratore delegato di Fastweb Parisi e uno stralcio delle dichiarazioni che ha rilasciato questa mattina il nostro Oscar Giannino. Cominciamo però subito con la borsa, visto che Salvadanaio ha anche il contenitore dedicato alla finanza. Un ascoltatore intanto ci chiede: diteci il prezzo di Fastweb, 14,27 euro, il titolo adesso perde 6 punti. È una inchiesta che deve essere ancora completamente appurata, quindi probabilmente se ne parlerà ancora a lungo. Di fatto gli azionisti subiscono un effetto pesante di una frode ancora tutta da dimostrare, quindi anche questo è un aspetto interessante. Ma ti volevo chiedere, Valeria, quando l'ha comprata Swisscom nel 2007 ha pagato 47 euro, e adesso il titolo ha perso parecchio, insomma, adesso a prescindere dalla vicenda di questi giorni. Cosa ti suggerisce tutto questo? Allora, mi suggerisce semplicemente questo. Innanzitutto teniamo conto che dal 2007 adesso, in ogni caso, le borse sono scese di molto, quindi già questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, attenzione, perché quei 47 euro che ha pagato Swisscom, per dire, dalla stessa società, tenevano già conto del potenziale rischio insito in queste inchieste che sono state avviate in questo momento, perché naturalmente la società non aveva acquistato a scatola chiusa, ma aveva fatto fare una perizia. Quanto questa perizia sia poi attualmente affidabile è ancora tutto da vedere, perché teniamo presente che già nel 2004 era iniziata questa inchiesta, già nel 2007, poco prima dell'acquisto da parte di Swisscom, Scaglia aveva ricevuto un avviso di garanzia che però non si è concretizzato in altri proseguimenti degli indagini, quindi sembrava che la vicenda si fosse conclusa così. Adesso, con queste misure molto più forti, quali la richiesta di arresto per Scaglia, l'eventuale commissariamento o interdizione alle attività, è evidente che si accelera il ribasso. Se questo sia e il vero valore di Fastweb, al momento noi non lo possiamo dire, perché non è neanche detto che anche in caso di colpevolezza di singoli individui, perché di questo ora si parla, non della società in toto, ci siano delle ripercussioni materiali sui conti della società. È quindi possibile che sia un ribasso anche forte emotivo, ma come la borsa spesso fa, perché reagisce emotivamente alle notizie. Peraltro la società svizzera, la Swisscom, che appunto controlla la maggioranza di Fastweb, ha proprio attraverso un suo portavoce fatto sapere nei giorni scorsi che non ha neanche fatto accantonamenti particolari legati all'esito dell'inchiesta giudiziaria, proprio perché sapevamo, hanno detto, già tutto. Telecom invece stamattina, dopo due giorni abbastanza tranquilli, sempre in perdita ma tutto sommato perdita più contenuta, oggi cede il 3%. In corso un consiglio di amministrazione che aveva all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2009, ma soprattutto la presentazione, Valeria, di un piano industriale. Cosa è successo invece? È successo che, siccome sono stati sequestrati 300 milioni di crediti in capo a Telecom Italia Sparkle, che è la controllata, evidentemente non solo sono da rifare i conti 2009 anche alla luce di questo, ma anche e soprattutto bisogna tenere conto di questo nella redazione del piano industriale. Anche qui non è detto che questo sequestro sia definitivo, però fino a quando non si hanno certezze, è meglio che ci sia stato un rinvio, e che in questo caso avverrà il 25 marzo sia per i conti sia per il piano industriale. Attenzione, teniamo però conto che il peso di Telecom Italia Sparkle nell'ambito del gruppo Telecom è limitato. Limitatissimo, tant'è vero che stamattina il nostro Oscar Giannino ha definito Telecom Italia Sparkle una delle società dell'arcipelago Telecom, pertanto è chiaro. In ogni caso, qualora fosse commissariata, Telecom Italia Sparkle chiaramente limiterebbe molto anche possibili iniziative straordinarie che la stessa Telecom potrebbe prendere in futuro. Qua abbiamo in ballo da diverso tempo una fusione con un'integrazione, non si sa quale operazione straordinaria con gli azionisti di Telefonica, con gli spagnoli, Valeria. Secondo te? Allora, diciamo che la fusione, per vari motivi inerenti soprattutto a livello dell'indebitamento di entrambe le società, Telecom e Telefonica, presenta comunque dei problemi, per cui ultimamente sembrava un po' passata in secondo ordine, ma soprattutto teniamo conto che in realtà l'unico al momento vero danno che potrebbero avere da questo commissariamento quelli di Telecom è il fatto che loro già dall'anno scorso avevano avviato la possibilità di cederne il 49%, in quanto non la ritenevano comunque una partecipazione particolarmente strategica, e quindi è chiaro che al momento è tutto fermo. Una volta che questo si risolverà, potranno anche decidere in merito. Allora, 800240024, leggo una mail che ci è arrivata poco fa. Sono un azionista di Fastweb, non so cosa fare, devo vendere il titolo, è meglio aspettare il 2 marzo? Esiste la possibilità che Swisscom approfitti della discesa e delle quotazioni per lanciare un'offerta pubblica d'acquisto residuale? Rispondiamo al nostro ascoltatore tra poco, però ha citato questa data fatidica del 2 marzo e qui interpello l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile, appunto, dicevo prima, dei servizi legali di Unione Fiduciaria S.P.A., ma è anche presidente di organismi di controllo secondo quanto stabilisce il decreto 231, quindi adesso ci spiegherà bene che cosa sto dicendo, lo faccio fare a lui naturalmente perché io neanche mi avventuro in questo terreno che è piuttosto complicato. L'ascoltatore cita il 2 marzo, avvocato Vedana, data in cui il giudice per le indagini preliminari potrebbe accogliere appunto la richiesta della procura e commissariare Fastweb e Telecom Italia Sparkle. A quel punto che cosa succederà? Tra l'altro, allora, si tratterebbe della prima volta per una società quotata a Piazza Affari, anche questa è una cosa molto importante da ricordare. Molto importante, quindi due scenari. Primo scenario, il giudice accoglie le richieste del PM, ovviamente per accoglierla dovrà essere dimostrato che il modello organizzativo 231 non c'era, che non c'era un organismo di controllo, che il vantaggio e l'interesse della società effettivamente c'è stato perché comunque c'è stato un credito IVA che non gli competeva. Secondo scenario, quindi primo scenario si conclude con il commissariamento. Secondo scenario, in realtà il modello c'era, l'organismo pure, le regole c'erano, c'è stato un comportamento fraudolento da parte di uno o più dipendenti, se vogliamo la dimostrazione lo è il licenziamento in tronco di alcuni di questi dipendenti da parte di Fago e ieri. Quindi due scenari, primo scenario quello più traumatico e che apre le porte a eventualmente scenari anche peggiori per quanto riguarda l'andamento dei titoli. Il commissario viene disposto. Cosa significa essere governati da un commissario? Significa che il commissario può limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione della Fastweb piuttosto che della Telecom Sparkle, e quindi chiudiamo le porte ad eventuali operazioni straordinarie perché devono essere autorizzate di volta in volta dal giudice. Quindi con uno scenario, alla luce anche di quello che si diceva prima sui riassetti Telecom piuttosto che di Fastweb, tutti da definire. Il commissario cosa significa e perché c'è? Proprio per tutelare l'azienda Fastweb e Telecom Sparkle, che svolgendo un servizio di comunque pubblico interesse così possono proseguire la loro attività. L'alternativa sarebbe stata interrompere i loro servizi, certo. Ma evidente era l'estrema razio che nessuno ha voluto percorrere. Quindi, tanto per cominciare subito a rassicurare tutti, qualora anche dovesse arrivare un commissario, adesso lo vedremo solamente la prossima settimana, ma è un contesto talmente complicato che non possiamo neanche propendere per un'ipotesi piuttosto che per un'altra noi osservatori. Comunque, qualora anche arrivasse, nessuno ci interromperà il servizio internet, sono direttamente interessata alla questione, né la TV se abbiamo il servizio televisivo tramite Fastweb, né la linea telefonica, per cui stiamo tranquilli da questo punto di vista, anzi il commissario arriva proprio per tutelare questi aspetti. La continuità aziendale è comunque garantita, cioè non bisogna preoccuparsi, ci mancherebbe altro, insomma spero bene che non siamo in un paese in cui si chiude l'attività di un'azienda, quindi tranquilli che l'attività dell'azienda viene comunque garantita. E come l'eventuale commissariamento dovesse essere attuato non c'è dato sapere. Siccome stiamo parlando di una misura cautelare e non di una sanzione, spero che la misura cautelare sia limitata e circoscritta alla verifica e alla supervisione su eventuali reati che l'azienda dovesse fare in questo ambito. Era Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb. Qualcuno magari si sarà accorto anche di averlo sentito questa mattina dalle 9 in avanti nella trasmissione di Oscar Giannino. Abbiamo voluto riprendere anche questa parte delle sue dichiarazioni, che ci sembra piuttosto importante per rassicurare naturalmente tutti coloro che sono clienti intanto di questa azienda. Intanto stiamo parlando di 1.664.000 persone, per non parlare poi di tutto quello che è anche l'aspetto occupazionale di questo grande gruppo, per cui ci sentiamo in dovere anche di fornire rassicurazioni da questo punto di vista, perché, come ci spiegava bene prima l'avvocato Vedana, in ogni caso per un contesto complicato come quello che stiamo tentando di spiegare oggi, il commissariamento è proprio un aspetto massimamente cautelativo, proprio per garantire il proseguimento dell'attività aziendale, come esattamente spiegava anche l'amministratore delegato. Allora, ci sono tanti aspetti da affrontare. Sentiamo subito Alessandro da Roma, poi vado dall'avvocato Luongo del Movimento Difesa del Cittadino. Alessandro, buongiorno. Noi stiamo parlando di clienti di Fastweb, di azionisti di Fastweb e Telecom. Vedo che a lei invece interessa tutt'altro punto di vista. Sì, grazie, buongiorno. La mia domanda è molto semplice. Volevo sapere se in caso di commissariamento, in virtù delle indagini che sono in corso, Fastweb o Telecom, in quanto controllante di Telecom Sparkle, può ancora partecipare a gare pubbliche, perché questo impatta comunque sul fatturato 2010 delle due aziende. Delle due aziende, ma lei è un azionista, si interessa, si fa questa domanda per questo motivo, per curiosità, Alessandro, poi ovviamente può essere una curiosità del tutto. Non mi vuole rispondere? No, mi chiedevo come mai avesse questa particolare curiosità sul fatto che queste aziende partecipassero a gare pubbliche. Vabbè, comunque andiamo dai nostri... No, nel mercato delle telecomunicazioni Fastweb è molto presente, sì, nella pubblica amministrazione, dalla quale ha un grosso fatturato, per cui come azionista di Fastweb, se dovesse perdere quel fatturato... È chiaro, ecco, che potrebbe impattare anche. No, infatti è lì che volevo arrivare, capire come me le interessasse proprio questo aspetto, perché è un azionista appunto del gruppo, di conseguenza si interessa anche agli introiti futuri e ai profitti. Avvocato Vedana, torno per un attimo a lei. Allora, il fatto di partecipare ad una gara pubblica è un'azione contemplata nell'ambito di un ordinario, straordinaria, è attività ordinaria o straordinaria, perché poi ai fini appunto del commissariamento questo è un aspetto rilevante. Per la verità, più che un problema di ordinario o straordinario, è un problema di capire se il giudice, cosa che potrebbe fare, disporrà tra le misure interdittive, cosa che potrebbe fare, ripeto, ai sensi dell'articolo 9,2 del decreto 231, anche il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che ovviamente per ottenere a sua volta Fastweb delle prestazioni di pubblica utilità, quindi non gli si stacca ovviamente la corrente elettrica, ma potrebbe essergli inibita anche la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione. Questa fa parte del kit, diciamo, di misure che possono essere disposte da un giudice, ripeto, laddove ci siano elementi tali e gravi da giustificare questa inibizione. Quindi questo, oppure in ogni caso, qualora questa eventualità non fosse contemplata nel famoso kit che lei ha citato, in ogni caso, una volta che la società è soggetta alla gestione di un commissario straordinario, anche la gara o la partecipazione ad una gara pubblica viene comunque autorizzata volta per volta? Non fa parte lo si sa dall'inizio, ecco. Di amministrazione, soprattutto nella misura in cui è di consuetudine per queste aziende partecipare a gare pubbliche, anzi il commissario deve preservare il valore, non pregiudicarlo, quindi il non partecipare a gare significherebbe mettere a rischio la continuità aziendale o comunque far scendere gli utili, e quindi deve partecipare, non, a meno che il giudice non disponga altrimenti. 800 24 00 24, continuo a ricordare il numero verde per i nostri ascoltatori, così come il 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Avvocato Luongo, finalmente arrivo a lei. Movimento Difesa del Cittadino, responsabile del Dipartimento delle Telecomunicazioni, le chiedo un commento su questo. Allora, come azionista, visto che molti di queste persone ci stanno chiamando direttamente interessate alle vicende di Fastweb, non tanto perché hanno magari l'abbonamento internet a casa, quanto perché invece appunto hanno sempre creduto nel business di questa azienda e magari appunto hanno sottoscritto azioni in vari momenti del mercato, che non è stato molto felice a giudicare anche dal prezzo attuale, appunto, però il prezzo attuale è stato raggiunto soprattutto per i tracolli degli ultimi due giorni. Allora, l'azienda subisce un tracollo in borsa, può riguardare Fassob come qualsiasi altra società, non per ragioni di mercato, ma per fattori di tutt'altro tipo, tutti da dimostrare. In questo caso stiamo parlando di una frode fiscale di portata enorme. Secondo lei gli azionisti possono chiedere indennizzi e risarcimenti in casi come questo? Guardi, anch'io come rappresentante di un'associazione di consumatori non posso che rassicurare gli azionisti. L'ipotesi di commissariamento non può che essere positiva, qualora il GIP dovesse ritenere disporla. Beh, se insomma il mio amministratore di condominio si comporta male, è bene che il tribunale ne nomini uno di fiducia che possa fare le cose al meglio. Il danno per gli azionisti sicuramente c'è, purtroppo i ribassi di queste ore è chiaro che derivano da vari aspetti, ma soprattutto da questa inchiesta. Un'inchiesta che è ancora in corso, ma in base alla quale Telecom Italia Sparkle e Fastweb avrebbero praticamente fruito di crediti d'IVA per circa 370 milioni di euro. Questi crediti IVA, all'esito di quello che sarà poi il procedimento giudiziario, potranno essere chiaramente riconosciuti o meno, con conseguente perdita di denaro per l'azienda. È evidente pertanto che gli azionisti avranno titolo, qualora la responsabilità penale, che però voglio ricordare a tutti è personale, avranno titolo ovviamente per agire nei confronti di chi si sia comportato scorrettamente, di chi abbia partecipato, ideato o concorso in qualche modo a questa truffa. Una truffa che danneggia ovviamente l'immagine dell'azienda, una truffa che però danneggia anche un po' tutti i contribuenti italiani, che sono quotidianamente tartassati dal fisco, e constatare come purtroppo queste grandi aziende e queste società vanno a operare sul mercato sfruttando un po' quello che è il discorso delle prestazioni intracomunitarie per evadere l'IVA, e con una tale mole di denaro veramente lascia esterrefatti. L'ha citata indirettamente lei la frode carosello, avvocato Luongo. Sì, si tratta di frodi carosello, vanno di moda da tanti anni nel settore auto, e mi ha colpito questa inchiesta perché un po' rappresenta la nemesi di quelle famose numerazioni a pagamento, di quei famosi 899, 709, 144, che in tante puntate hanno fatto parte della sua trasmissione, sì, che hanno creato incubi ai consumatori. Ricordiamo che l'inchiesta prende le mosse appunto da una serie di movimentazioni di capitale che derivavano quindi da prestazione appunto di servizi su numerazioni a pagamento. È un po' una nemesi per le compagnie telefoniche, e c'è tanto da indagare su questa faccenda, che appunto dal 2003 ha fatto sì che praticamente milioni e milioni di euro fossero incamerati da parte degli utenti indebitamente a tutto vantaggio delle aziende. La frode carosello però la dobbiamo spiegare. Sì, infatti, anche perché su questa ha acceso un riflettore molto preciso anche la Banca d'Italia, e c'è un documento che è stato pubblicato, lo si può trovare anche sul sito, lo scorso 15 febbraio, se non sbaglio, avvocato. Perché la Banca d'Italia ha detto di stare attenti in particolar modo su questi frodi? Allora, in realtà era nell'aria questo scandalo. La Banca d'Italia ha emesso il 15 dicembre una nota informativa dedicata a tutti gli intermediari finanziari, appunto dando una serie di parametri cui fare attenzione per evitare verificarsi di queste frodi. Voglio spiegarla molto rapidamente per farla capire a tutti gli ascoltatori. Si creano una serie di società con sede all'estero nell'Unione Europea e una serie di società con sede in Italia. La prima società cede fittiziamente, quindi con con prestazioni finte, quali possono essere finte chiamate a numeri a pagamento, una serie di servizi. Nel caso di specie si trattava, secondo la procura, di servizi di telefonia, e su questa transazione non paga l'IVA. La seconda società rivende questi servizi a una società con sede italiana pagando l'IVA del 20%, quest'ultima società poi rivende il servizio alla prima società creandosi un credito d'imposta del 20%. In sostanza le società interessate in questo modo dicono al fisco: caro fisco, guarda che io su tutti i miei ricavi ti devo questi ricavi meno il 20%. Mm-hmm. E parliamo di che cosa? Dell'IVA che viene pagata anche sulle bollette di Fastweb. Esattamente, infatti, perché se a me arriva la bolletta io ce la devo pagare sopra. Assolutamente. Però poi invece sì, l'azienda con quella... In questo caso, qualora la magistratura dovesse confermare l'ipotesi di reato, accadrebbe che praticamente l'azienda o le aziende coinvolte in realtà questa IVA non la riversavano, quindi non la dichiaravano, ma dicevano allo Stato di esserne creditori. Il cittadino però, l'utente, la pagava. Questo poi apre altri aspetti. La Banca d'Italia però dice da tempo di stare attenti proprio nell'ambito di quella che è la disciplina in materia di antiriciclaggio, di stare molto attenti a queste società che nascono un po' come funghi, non operative, con capitale irrilevante, senza strutture, senza magazzini, con sede in paradisi fiscali o con amministratori che sono irreperibili, dicendo appunto all'intermediario, al professionista che si trova ad affrontare questo tipo di situazioni, di avvisare immediatamente la pubblica autorità, quindi che può essere la Banca d'Italia, la Guardia di Finanza. In realtà lo scandalo era nell'aria, molto ci sarebbe ancora da indagare. Infatti noi abbiamo solamente sciolto un piccolo nodo. Io, avvocato, la devo interrompere perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, però la ringrazio anche per la chiarezza con la quale ci ha spiegato un meccanismo che veramente per i poveri tapini come me è del tutto incomprensibile. Altri ascoltatori invece ci chiedono maggiori delucidazioni sulla legge sul commissariamento che abbiamo citato prima, il decreto 231 del 2001, e su questo provvedimento ci ha dato maggiori dettagli l'avvocato Vedana Prima. Ma se ne avete necessità ci ritorneremo. Ultimi aspetti di Salva Daneio questa mattina, trasmissione dedicata alle vicende Fastweb e Telecom Sparkle. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Valeria, prima l'ascoltatore che ci ha chiesto appunto, ci aveva inviato una mail, adesso la ricostruisco, se approfittando di queste quotazioni appunto l'azionista svizzero di Fastweb potrebbe essere tentato di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto residuale. Secondo te è un'ipotesi concreta? Diciamo che questa è un'ipotesi che da tempo il mercato si chiede, nell'attesa però che eventualmente Swisscom lanci un'OPA, ovviamente a prezzi più elevati rispetto a quelli attuali del titolo. Swisscom in realtà aveva già opportunità in precedenza per fare questo, anche se il titolo era un po' più alto di adesso, e non le ha mai sfruttate, ribadendo sempre che intende mantenere Fastweb quotata. Innanzitutto, se veramente Fastweb fosse commissariata, Swisscom ovviamente l'OPA non potrebbe comunque farla, per cui qualunque decisione è rimandata alla soluzione della vicenda, cioè al fatto che non ci siano più ombre sull'attività di Fastweb. Solo dopo, ed eventualmente a quel punto magari il titolo potrebbe essere anche risalito, in quanto infatti si sarebbero risolti i dubbi, eventualmente Swisscom potrebbe farlo. Al momento mi sembra un'ipotesi che si allontana ancor più rispetto alle già scarse probabilità che aveva prima. Allora, tra l'altro, venerdì scorso con gli amici di Plus 24 del Sole 24 abbiamo anticipato la loro storia di copertina che sarebbe andata in edicola sabato scorso, e hanno fatto proprio un punto su 10 anni di New Economy. Valeria, Fastweb, la ex Ibiscom di Silvio Scagli e Francesco Micheli, è l'unica società dell'era della New Economy italiana rimasta non tanto indenne dalla bufera tecnologica, dallo scoppio della bolla speculativa appunto in questo settore che ha riguardato anche noi, ma voglio dire, un gioiello rimasto intatto con dei presupposti però industriali molto concreti, quindi un'azienda davvero incredibile per il tipo di tecnologia anche che ha portato nel nostro paese quando agli inizi del 2000 non sapevamo neanche che cosa fosse probabilmente la fibra ottica. Diciamo che sicuramente sì, in parte il merito è loro, sia per il tipo di attività che hanno avviato sia per l'idea che hanno avuto, anche se nel corso degli anni il tipo di piani industriali sono sempre leggermente cambiati nel tempo a seconda di come si modificava il mercato. Però non molti ricordano che pochi mesi dopo che si è quotata l'allora Ibiscom, adesso Fastweb, si è quotata un'altra società che allora si chiamava iPlanet e adesso è confluita in Rete Lit ed è una piccola società che capitalizza circa 60 milioni di euro. La differenza tra queste due società che avrebbero dovuto svolgere più o meno lo stesso tipo di attività è dovuta all'introito realizzato in sede di IPO, che per Ibiscom è stato di 1,6 miliardi di euro, mentre per iPlanet, avvenuta solo pochi mesi dopo, quando il mercato aveva già iniziato a cedere, è stato di circa 250 milioni di euro. Evidente che, dovendo mettere in piedi un'attività che partiva ex novo e che avrebbe avuto comunque bisogno di ingenti investimenti, conta soprattutto i mezzi di cui si dispone. Ricordiamoci che originariamente il prezzo minimo stabilito per le azioni Fastweb, Ibiscom, allora sarebbe stato di 25 euro per azione, ma in realtà, vista la grande offerta, è stata offerta 160 euro per azione. Se fosse stata offerta 25 euro per azione, avrebbe fatto la stessa raccolta di Planet. Incredibile. Grazie anche per questo gossip che è finanziario, come dire, che gossip, tutt'altro che gossip, sono cose concrete che sono successe nel passato e che ci danno anche un po' la misura anche di quello che può succedere. Poi la storia delle società prende a volte strade diverse, anche per le ragioni appunto che Valeria ci spiegava. Avvocato Vedana, vorrei tornare da lei per un attimo solo per accontentare gli ascoltatori che ci chiedono maggiori chiarimenti su questo decreto 231. Quello che lei ci ha spiegato prima impone un adeguato modello organizzativo alle società con organismi di vigilanza e di controllo presieduti anche da figure esterne, come è il suo caso, perché anche lei capita. Lei che tipo, per esempio, di comitati presiede, tanto per farci capire? Fondamentalmente di banche e di intermediari, quindi organismi di vigilanza che devono presidiare i rischi ai quali è esposta una banca in termini di riciclaggio piuttosto che abusi di mercato e via dicendo. Questa legge come mai è arrivata nel nostro ordinamento? Che cosa dispone esattamente? Beh, come molte leggi di recente attuazione, è una legge che è il portato di normativa comunitaria, una normativa comunitaria che negli anni 2000 ha introdotto l'obbligo da parte di tutte le aziende europee di dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire l'eventuale commissione di reati da parte dell'azienda da loro soggetti, apicali o non, nell'interesse o con un vantaggio dell'azienda. In questo caso specifico, evidente, il vantaggio, abbiamo detto, è un indebito credito d'imposta. Non dimenticherei, nell'ambito della definizione delle responsabilità, il fatto che sia Telecom Sparkle che Fastweb hanno una controllante, e il codice civile, come sanno gli ascoltatori, l'articolo 2497 prevede delle responsabilità in capo alla società che svolge direzione e coordinamento nei confronti delle società soggette a delle sanzioni. Quindi lo scenario, a mio giudizio, dopo il 2 marzo sarà più chiaro, perché se verrà confermata l'esistenza di una responsabilità delle controllate Fastweb e Telecom Sparkle, potrebbero aprirsi degli scenari tutti da verificare anche sulle loro controllanti svizzere, perché rispondono comunque davanti ai tribunali italiani, nel caso di Swiss, e di Telecom mamma nel caso della Telecom Sparkle. Per farla breve, come mi piace usare un po', insomma, delle frasi chiare, la 231 è una sorta di scudo penale. Se hai un modello organizzativo, tua azienda, se hai un organismo, se hai adottato una serie di regole, ti sei creata uno scudo per evitare di andare responsabile di fronte ad eventuali fatti commessi da tuoi dipendenti o apicali. Se non hai questo modello, sei senza scudo, sei nudo di fronte a delle responsabilità legate a questi fatti. Allora, noi dobbiamo salutarci fra un minuto e mezzo circa, allora rivolgo l'ultima domanda di oggi all'avvocato Francesco Luongo, girandogli un po' le considerazioni che stanno facendo alcuni ascoltatori che hanno in ballo delle questioni con Fastweb, come per esempio la restituzione del decoder, per esempio se hanno il televisore, o comunque la chiusura dell'abbonamento. Un'altra ascoltatrice ci scrive che per esempio sua figlia ha fatto un contratto con Fastweb e dopo 2 o 3 mesi è arrivata una bolletta pesantissima e per chiudere questa vicenda ha dovuto andare al giudice di pace. Allora, vogliamo spiegare, magari per essere chiari, che tutto questo non c'entra con la vicenda giudiziaria in corso e che naturalmente, anche se fosse commissariata, se non fosse commissariata, se tutto dovesse risolversi in una bolla di sapone, come dire, queste faccende continueranno a verificarsi anche successivamente, perché comunque la conflittualità con le aziende c'è sempre. Avvocato Luongo. Assolutamente sì, i consumatori, gli utenti, i clienti, Fastweb devono stare assolutamente tranquilli. Per quanto riguarda eventuali contenziosi, ricordo che le associazioni dei consumatori hanno firmato con Fastweb un protocollo d'intesa che prevede la conciliazione paritetica, quindi si possono risolvere la gran parte delle problematiche in sede non contenziosa, quindi senza avviare giudizi. Quindi l'azienda continua sicuramente a lavorare. Per quanto riguarda i clienti, i consumatori, i loro diritti, come stabiliti dalla carta del servizio, sono assolutamente al sicuro da quello che è uno scandalo finanziario, da quella che è un'inchiesta penale che porterà a delle responsabilità. Uh-huh. Volevo chiudere semplicemente comunicando. Rapido, se può, la ringrazio, sì. Assolutamente sì, brevissimamente, è entrato in vigore il 20 febbraio il decreto legislativo numero 18 del 2010 che serve a contrastare appunto le frodi carosello. Benissimo, grazie. Grazie all'avvocato Luongo, Movimento Difesa del Cittadino, all'avvocato Fabrizio Vedana, alla nostra Valeria Novellini. Intanto c'è una dichiarazione della SATI, che è l'Associazione dei Piccoli Azionisti Telecom, che chiede di avviare immediatamente azioni di responsabilità verso i top manager delle gestioni precedenti. È tutto, Salvadanaio torna domani. Buona giornata.